Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sono ormai solito dire, vi auguro una buona serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Ricordo il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Il blog si chiama Guardie o Ladri. Allora, sono rimasto particolarmente colpito, devo dire la verità, nel leggere per alcuni giorni di seguito articoli dedicati dal Messaggero di Roma ad un gesto che dirà giustamente un ospite che abbiamo chiamato a commentare l'episodio, un gesto odioso. Cioè, accade nel quartiere della Magliana a Roma, dove una scuola che si chiama Scuola Viva, è una scuola che cerca e tenta, ma sicuramente riesce anche, il recupero, la riabilitazione motoria e psichica dei disabili. Accade che questa scuola nel giro di poco tempo viene assalita per 5 volte e saccheggiata. Quindi 5 assalti, 5 furti, 5 devastazioni in poco più di un mese. È stato rubato anche il cibo che era destinato ai pazienti. Ricordo che ce ne sono circa 250 di tutte le età. Per commentare questo gesto incivile, odioso, disgustoso, che dovrebbe veramente far riflettere tutti a che punto è arrivato ormai l'inciviltà nel nostro paese e non solo, noi abbiamo ospite la direttrice dell'associazione Scuola Viva Onlus, Serena Pocek Martello. Buongiorno. Buongiorno. E il presidente del 15° municipio di Roma, Gianni Paris. Buongiorno Paris. Buongiorno a voi. Allora, Pocek Martello, a lei il primo commento, le prime riflessioni su quanto sta accadendo, su quello che lei ha dichiarato ai giornali un vero e proprio stillicidio. Io volevo fare una rettifica subito. Noi siamo un centro di riabilitazione e non una scuola, e questo aggrava anche la situazione, perché vuol dire che da noi vengono anche degli utenti disabili, sofferenti, fino a tarda sera. Questo senso di pericolo c'è per loro come per chi lavora qua. Noi siamo qui da circa 40 anni e per un lungo periodo siamo stati risparmiati da certe cose perché rispettavano il lavoro che facevamo. Adesso sembra che sia cambiato qualcosa. Ci spiano, come arriva qualcosa di nuovo, cioè dopo poco vengono a rompere. Soprattutto rompere, perché che portino via computer o schermi, ma cosa vuole che ne riprendano? Certo. Anche se portano via qualche migliaia di euro, sfasciando tutta la scuola, il centro, scusi, per scardinare la cassaforte, non è una gran cosa. Assolutamente. Però no. Fanno un'infinità di danni. Ecco, quindi una violenza vandalica che non risparmia neppure un centro di rieducazione per disabili. Io chiedo a lei, Gianni Paris, ha detto una cosa secondo me importante la dottoressa Pocek Martello, cioè ha detto siamo stati per 40 anni risparmiati. Io sono romano, anche se purtroppo da molti anni ormai non risiedo più a Roma per lavoro, e Roma era la culla della civiltà, la culla della tolleranza. Che cosa sta accadendo a questa città, Paris? Ma lei prima mi ha detto cosa la politica ha a disposizione per rispondere a questo tipo di fenomeni, perché è chiaro, la prima risposta che verrebbe in mente di dare a qualsiasi cittadino è di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine. Però, nonostante il sindaco di Roma vada dicendo questo ormai da quando si è insediato, io penso che la politica ha altri strumenti a disposizione per dare una risposta ad una deriva come quella che la dottoressa Pocek ci ha raccontato. Roma sta diventando una città che purtroppo si è annunciata negli ultimi tempi, purtroppo, nel senso che quando si disegna Roma come una città pericolosissima in mano agli immigrati, che ha in mano agli zingari, che la stanno devastando e trasformando in un luogo non più culla della civiltà, io non dico che si alimenta la violenza, però la si in qualche modo legittima. Ecco, ma veniamo alle risposte che può dare appunto la politica. Lei è il presidente del 15° municipio. Fossi io la dottoressa Pocek, cioè la direttrice di questa associazione, la prima cosa che farei è chiamare le forze dell'ordine, ma poi chiamare anche un referente politico, quindi lei, Paris, e chiederle come potete aiutarci, che cosa potete fare. Prego, Paris. Ma intanto io Scuola Viva e la dottoressa Poce, che la conosco da 30 anni, quindi conosco bene il valore e il senso di questa iniziativa, l'abbiamo sostenuta negli anni. Scuola Viva ha un rapporto, diciamo, diretto con la Regione Lazio, perché è in convenzione, sta sul nostro territorio, su un'area che è l'argine del Tevere, particolare chiaramente, perché non è al centro, diciamo, del quartiere, ma è sull'argine del Tevere. Quello che in questi tempi abbiamo fatto è di cercare di non far sentire sola questa esperienza. In particolare, quello che avverrà in quest'area nei prossimi mesi è la realizzazione di un parco fluviale. Io penso che questa è la risposta più importante e alta che la tipica può dare, nel senso che quello oggi è un luogo nel quale non c'è una grande frequentazione di pubblico. Cioè lei dice, in buona sostanza, mi corregga se sbaglio, cercare di rendere più vivibile, più frequentabile quell'area, quindi cercando così indirettamente di allontanare quelli che sono i rischi di isolamento e quindi di più facile aggressione di questo centro per disabili. Assolutamente sì, io penso che se una realtà è lasciata sola, anche da un punto di vista ubicazionale, è più sensibile, preda di eventuali attacchi di scellerati contro questa realtà. Assolutamente. Ecco, allora, dottoressa... Invece c'è una frequentazione, l'area è viva, è animata. Noi stiamo realizzando una progettazione importante di un parco sul quale abbiamo investito risorse importanti. Ecco, progettazione che quanto tempo porterà via? Perché poi i tempi della politica e della burocrazia purtroppo sono biblici. Non stanno dietro i tempi della cronaca nera, questo è vero. Ecco. Però, insomma, siamo quasi arrivati. Bene. Allora, dottoressa Pocek, basta tutto questo? Io sento con molto piacere questa cosa, perché già tanto tempo fa avevamo parlato della realizzazione di un parco e noi ci eravamo dati anche disponibili a gestirne o sistemarne una parte, cosa che in effetti, data l'estensione del nostro terreno, che abbiamo circa un ettaro e mezzo, abbiamo fatto. Abbiamo realizzato un parco orto-giardino dove vorremmo la frequentazione anche delle scuole. Cioè, mi va benissimo che riusciamo a essere più integrati. E chiedo a Paris, che è vero che ci conosciamo e abbiamo lavorato insieme per tanto tempo, di partecipare insieme a questa realizzazione, perché sicuramente se siamo meno isolati è molto meglio per tutti. Se si riesce a rendere la zona più agevole, ho visto che ha messo un po' di illuminazione sulla pista ciclabile, forse anche qualcosa di più, bisognerà favorire che vengano finite le fognature e messe anche l'illuminazione in questa zona. Ecco. Fosse più vissuta, sicuramente sarebbe molto meglio. Ecco, dottoressa Pocek, le chiedo questo, ma mettendomi adesso invece nei panni di uno dei ragazzi o, diciamo così, dei pazienti che frequentano il vostro corso, una cosa che farei probabilmente è, lo dico con una punta anche di vergogna, voglio essere chiaro come sempre, sì. Proverei a mettermi in contatto con gli altri familiari, gli altri parenti, per tentare di dare una vigilanza in quello che è un centro nevralgico per i disabili. Dico che mi vergogno perché ovviamente non sono un fautore delle ronde, anzi lo trovo qualcosa di inutile e spesso dannoso, però la disperazione può portare anche a questo, no? Al tentativo di fare della vigilanza in modo tale da tenere, non dico integro, ma vigilato appunto un centro vitale, perché mi metto nei panni delle famiglie che hanno dei figli disabili che frequentano questo centro e provo vergogna per Roma come romano. E allora le dico questo, dottoressa Pocek, fra i familiari che lei conosce c'è qualcuno che ha pensato ad una cosa del genere? Guardi, sul mondo della disabilità e della riabilitazione questo vive un momento molto difficile, perché ci sono dei tagli nella spesa e non si sa neanche quanto riusciremo a garantire il servizio a tutti. Perciò i familiari sono mossi su altre situazioni e noi abbiamo cercato il più possibile di non coinvolgere l'utenza. Anche stamattina, in questi mattine, quando abbiamo magari la polizia che fa i riscontri, cioè, cerchiamo di non spaventarli. Però, e forse le famiglie di questi disabili non sono in grado di fare questo servizio. Certo, e noi ci stiamo tassando con una vigilanza di tutta la notte che, francamente, in un momento così difficile per noi, sanità romana, ci sta svenendo. Però sembra che non basta neanche quello. Allora, come si allontana, arrivano. Certo. E per quello che dico, mi sento spiata. E arrivano in forze perché ho, certe volte sembra che siano più persone con armi improprie, tipo coni, cose, e sfondano tutto. Tutto quello che c'è da sfondare. Io la ringrazio, dottoressa Pocek, per il suo contributo. Così come ringrazio anche Paris e lo sollecito a fare quanto prima qualcosa di concreto. Glielo chiedo come romano e glielo chiedo a nome dei miei radioascoltatori, dei nostri radioascoltatori, perché sono convinto che questo è un tema che li renderà molto sensibili. Quindi io dico che continueremo a seguire questa vicenda e la mail che prima vi ho dato, una busta al giorno, @radio24.it, serve anche per segnalare eventuali situazioni simili in altre parti d'Italia. Dico grazie ai nostri ospiti, li saluto, dico grazie in regia a Giacomo Spunta e in studio a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata e vi dà appuntamento a domani con una nuova puntata.